America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, non ci sono buone notizie per Strauss-Kahn, per Dominique Strauss-Kahn, il direttore del Fondo Monetario Internazionale, incriminato per molestie sessuali. He is also probably the most easily identified individual in the world today as a result of the publicity that has been generated during the past. Benjamin Braffman, l'avvocato di Dominique Strauss-Kahn, sta appellandosi al giudice Melissa Jackson, le chiede di consentire al suo cliente di depositare una cauzione e di lasciarlo a piede libero fino a venerdì, quando ci sarà il prossimo appuntamento in tribunale con il grand jury. Ma il giudice è stato inflessibile. L'ipotesi di cauzione è stata respinta e Dominique Strauss-Kahn, cosa devo dire piuttosto rara per il sistema americano che tutela i diritti di colui che è considerato innocente fino a prova contraria. Devo dire, non mi ricordo di casi in cui furono respinte le possibilità di depositare una cauzione, o meglio, ce ne sono stati, ma non casi di questo genere in cui il personaggio come Dominique Strauss-Kahn è talmente conosciuto che sarebbe ovviamente per lui impossibile nascondersi. C'è però un precedente, e cioè che nel 1977 la Corte americana di Los Angeles concesse a Roman Polanski, il grande regista, di depositare una cauzione, di essere a piede libero fino al suo successivo appuntamento in tribunale, e di nuovo era una questione di molestie sessuali, in quel caso per una minorenne. Ebbene, Polanski fuggì, lasciò la cauzione e fuggì in Francia, non andò mai sotto processo ed è tuttora ricercato negli Stati Uniti d'America. Ecco, credo che il profilo di Strauss-Kahn comunque sia diverso da quello di Polanski. Eppure il giudice, come vi dicevo, è stato inflessibile. Quali sono stati i capi d'accusa? Capi d'accusa durissimi, che se li prendiamo complessivamente prevedono, pensate, una pena possibile di 74 anni di prigione. Due capi d'accusa di primo grado per aggressione sessuale, uno di primo grado per tentato stupro, uno di primo grado e uno di terzo grado per abuso sessuale, uno di secondo grado per sequestro di persona e uno per palpeggiamenti forzati. We also know that the defendant has the personal, political and financial resources to in fact flee and evade law enforcement. Il prossimo appuntamento, quello credo per il quale ci ritroveremo nei prossimi giorni, è venerdì. Per venerdì ci sarà il grand jury. Il grand jury è una giuria speciale che viene nominata d'ufficio dal giudice, non richiede l'approvazione da parte degli avvocati, è in genere formata questa giuria da persone di cultura elevata e giudicano in segreto a porte chiuse se la procura ha portato delle accuse credibili o meno. In sostanza daranno il nulla osta per procedere o meno con il processo vero e proprio. Potrebbero considerare le prove insufficienti e dunque chiudere la vicenda in quel momento. Ne dubito, visto che il caso del procuratore distrettuale di New York sembra essere piuttosto forte. Ma una delle questioni che ovviamente resta aperta riguarda il Fondo Monetario Internazionale. Ai microfoni di America 24, proprio per discutere di Fondo Monetario Internazionale, prospettive per l'Europa, abbiamo Carlo Bastasin. Buongiorno Carlo. Buongiorno Mario. Allora, qualcuno dice che potrebbero esserci rischi per l'Europa da un'uscita di Strauss-Kahn, perché era un grande difensore dei nostri interessi, è vero? Strauss-Kahn era certamente il riferimento pro-europeo all'interno del Fondo Monetario, ha giocato una parte attiva durante la crisi. L'esempio più evidente è quello del gennaio 2010, quando Strauss-Kahn offrì l'aiuto del Fondo Monetario, quando ancora l'Unione Europea non era del tutto convinta, disse: salveremo noi la Grecia se la Grecia chiederà aiuto. Fu un passo importante. Successivamente lui assieme a Trichet andarono a Berlino a convincere i gruppi parlamentari del Bundestag ad aiutare la Grecia. E lui stesso fu importante nel convincere Angela Merkel nel contribuire per dimensione al gigantesco pacchetto finanziario di aiuti approvato nel maggio 2010. Diciamo questo, il Fondo Monetario dall'inizio della crisi, in particolare quando in Europa, anche se all'esterno diciamo dell'area euro allora, in Ungheria, in Lettonia, si erano aperti i primi casi, beh, il Fondo Monetario era l'unico istituto internazionale a disporre delle capacità tecniche per intervenire nel salvataggio di paesi. Fu allora che si capì che la Commissione Europea non era tecnicamente in grado di salvare quei paesi. Ecco, diciamo, il ruolo del Fondo Monetario è stato importante. Il fatto che ci fosse un europeista o perlomeno un personaggio di spicco nel proscenio della politica europea alla direzione generale è stato certamente influente. Ci sono voci secondo cui gli asiatici vedevano un po' con un certo malumore questo attivismo pro-Europa di Strauss-Kahn. Pensando alla successione, è possibile che emerga un asiatico e quali saranno le conseguenze? Guarda, te lo posso testimoniare questa irritazione, nel periodo passato al Peterson Institute la vivevo quotidianamente, questa irritazione che in quel momento univa asiatici e americani nel criticare l'interventismo europeista del Fondo Monetario. Da quella posizione è nato la ridistribuzione delle quote di capitale del fondo, dove l'Europa ha lasciato spazio alla Cina. Ora questa successione traumatica riapre le tentazioni di cogliere questo come un twist, come un momento di cambiamento della storia della finanza globale e far emergere anche a livello di istituzione la nuova importanza dei paesi emergenti. Ci sono già dei candidati interessanti, decisamente interessanti. La possibilità che una svolta del genere cambi fisionomia e psicologia e natura politica al Fondo Monetario è molto forte. Una tua impressione su quel che è successo? Come è possibile che un personaggio come Strauss-Kahn, dell'intelligenza di Strauss-Kahn, si faccia prendere o si mette in una situazione di quel che già... Che conclusioni ne trai? Guarda, ci vorrebbe uno psicanalista più che, diciamo, un analista politico ed economico. Di certo, dal punto di vista del giudizio umano e personale, se le accuse saranno confermate, è catastrofico. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. I Foo Fighters hanno annunciato le date del loro prossimo tour degli Stati Uniti. Partirà il 14 settembre, l'obiettivo lanciare l'ultimo disco della rock band Wasting Light dei Foo Fighter. Vi faccio ascoltare Rope. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.